tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo in diretta del sabato sera con questi ragazzi che hanno appena preso la promozione, sì! La Serie D. Appena promossi in Serie D, esatto. Esatto, come si chiama la squadra? Brembate So. Brembate So, basket. Basket. BBS. Ah, perfetto, grandissimi. Quindi Serie D cosa vuol dire? Che è un buon risultato? Assolutamente sì. Soldoni. 5 anni che ci proviamo. Tu è che di più che ci provi. È da più. Puoi tenerla la cuffia, vai tranquillo. Forza al meglio. Ecco. Ma poi eravamo anche a piare qualcuno, mi sembra. Sì, ma... c'è una via celibato. Ma quello conta meno? Conta meno quello, sì. Conta meno. Quello, ma diciamolo proprio per scrupolo, chi è il festeggiato? Ma si chiama Alex, si sposerà con Mariangela. Esatto, Alex sei tu? Sì, sono io. Ti riconosci? Certo, insomma. Abbastanza. Ti ricordi che ti sposi? Tra un mese, sì. Sono Mariangela, forse. Con chi ti sposi? Vorrei sottolineare forse. Forse. Se vuole. Ma ho sentito dire il boss anche, perché lei ti comanda? No, lui, strazzo proprio. Effetto maschio Zerbino totale? Ufficiosamente no. Cioè, proprio una no, cosa. Non ha tatuaggi, ma il primo che farà si scriverà Welcome. Ah, welcome. Ah, proprio perfetto. Bellissimo. Allora di giocare durante le partite, vi pulite i piedi su di lui. Su di lui, perfetto. Sarà il suo ruolo dell'anno prossimo. È il nuovo ruolo dell'anno. Non volevo dirtelo così, però sai. Adesso cosa fa come ruolo? Panchinaro destro, ecco, panchinaro, porta bibite. Fortuna era lontano dal microfono. Il porta bibite, ecco, fondamentale per la promozione. Porta bibite. Poi voi invece, tu come ti chiami? Io sono Mario. Ruolo? Io sono il team manager della squadra. Quindi? Grande Mario! Mario! Ecco perché tirava l'acqua al suo mulino. Ecco. Lui è il team manager, che in italiano vuol dire? Dirigente. Ah, perfetto. Va bene, poi cosa abbiamo in parte? Alla piccola. Alla piccola? C'è la piccola? Anche. Ah, è una caratteristica fisica o è... Entrambe. Ok. Perché voi nella doccia vi conoscete, immagino. Oh, centimetro sabonette per terra. Oh, yeah! Quindi, ricordiamo il nome dell'ala piccola perché a casa vogliono prendere appunti. Marchetti alla grande per gli amici. Marchetti alla grande. È proprio sport. Cambiato ruolo. Esatto. Su Instagram CM33. Ecco. Okay. CM33 è un segnale. È un invito alle follower. Ecco, ok, per le follower CM33. Ok, cerca di riscattarsi così. Poi abbiamo il codino lì, come si chiama? Io sono Stefano Tintori, però sì. Io sono preparatore atletico. Preparatore? Non gioca nessuno di voi. Perché... Bravi, non gioca nessuno di questi. È preparato solo la piccola. La piccola. Poi abbiamo il Berta, ma sono nell'altra squadra del derby, diciamo. Ah, pure l'avversario, sì, visto non le c'è visto per. Le pigliamo e basta. Ce n'è uno della squadra. Hater. Poi abbiamo lo sposo, tu cosa fai? Io sì, gioco. Io gioco. Lui mette la playlist delle canzoni. Esatto. Fantastico. Cioè, e poi porta. Beh, è un ruolo fondamentale. È fondamentale quello. Poi porta borracce, giusto? Esatto. La cosa che fa ridere è che è vero. Che è vero che porta le borracce. Non stiamo scherzando. Lui mette davvero la playlist delle partite. È un ruolo fondamentale. Ah, veramente? Pensavo mi interessasse. No. Fantastico. Devi cioè... parlare vicino al microfono, Alex. Sì. Bravo, ricordatelo. Eccomi, sempre. Eccomi. Sì, ma non devi. Mariangela, ti amo! Oh, secondo me gli hai stordito. Sì, momento romantico, scusate. Sì, quel sentimento che lo prende proprio così e pervade tutto il suo corpo. Non so, sappiamo se sarà reciproca la cosa. Ma Mariangela è la futura sposa, almeno lei? Forse, sì. Ok, almeno ha azzeccato il nome, ecco, già è qualcosa, no? Che... Con Pamela non dicevi così. Ma ragazzi, ma loro, la Mariangela, le ragazze vengono a vedere le vostre partite? O... Sì, certo. Sono assolutamente delle nostre gruppi. Le gruppi? Hanno ma come nei film americani che saltano un po' con quelle robe lì? Più o meno. Saltano nello spogliatoio. La piccola CM33, ricordiamo. Marchetti. Strage di cuori, Marchetti. A strage di cuori. Come Tili con l'altro ieri. Ecco, giustamente sottolineiamo questo particolare. Siamo andati in Serie D e perso per un giorno. Abbiamo vinto, ma l'abbiamo perso per un giorno. Ah, ma giusto, avete perso CM33. Però l'abbiamo recuperato. Però risorto. È risorto, esatto. Ecco, dopo. Che bello, quindi è risdraiato e anche lì hanno riconosciuto CM33 da sdraiato. Assolutamente. Giustamente. E lui è il portabandiera in pratica della squadra. Immaginavo che avesse questo. Stai già guadagnando fuori. C'è un picco di ascolti dopo queste cose. Picco, sottolineiamo. Ecco, ricordiamo il nome della squadra perché magari BBS, qualcuno. BBS Basket Brembate So. BBS Basket Brembate. Basket Brembate, so, tutto con la B. Basket al me. No, giusto per ricordare. L'avversario, l'avversario ha voluto infilarsi un attimo. Ha voluto un attimino presentare anche lui. È giusto. Ma e gli altri siete degli. Siamo sparsi, sì, siete sparsi. Il roster della squadra. Ah, buono, buono. Com'è andata la vostra serata? Bene, molto bene. Bene, molto bene. Lo sposo ha qualcosa da dire? Vuoi ringraziare? Vuoi ringraziare gli amici? Forse. No, io voglio ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questa serata. Vabbè, dai. Momento commozione. Puoi essere un po' più comune. Io col cuore in mano ringrazio tutti. Siete veramente dei mitici. La mia famiglia. Grazie. Mia famiglia BBS e tutti spacco quelli botti- che... Spacco bottiglia, devi dire. Spacco bottiglia. Perché spacco bottiglia? Perfetto, perfetto. Grazie okay. a tutti. Ragazzi, il tempo a disposizione sta per scadere, quindi salutiamo la BBS. BBS. CM33. Qui fa anche c'è. Il dirigente. Piccoli picco, picco, picco. Va bene. Tanto, salutate voi con i vostri nomi. Mario. CM33. Luciano. Ilberta. Axel 399 ciao sì. No, perché lui è, dobbiamo dirlo al volo sì. Ha qualche soprannome, soprannome qualche. Vai vai, fai l'elenco. Official più 18 a Maestro, tutto quello che volete. Cercatemi su Facebook. La pagina Spigolo. Il maestro anche. Il maestro, la pagina. Perfetto. Il maestro. Va bene. Grazie. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.